Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, dopo la fiera di Bologna, parliamo di letteratura per bambini e ragazzi. Chi è veramente Kaylin Hogg, autrice della saga fantasy Hope, l'ultimo segreto del fuoco? Vi sveliamo chi si cela dietro lo pseudonimo. Come catturare l'attenzione degli under 18 in un libro? Parlano Beatrice Masini, traduttrice di Harry Potter, e Tito Faraci, sceneggiatore di Topolino. Aumentano i piccoli che leggono ebook. Lo dice l'indagine Nati Digitali. Oggi vi svelerò un segreto, e non è una cosa da poco, perché vi svelerò l'identità, anzi le due identità che si nascondono dietro uno pseudonimo. Lo pseudonimo è Kaylin Hogg. Sarebbe, secondo quello che si dice, una scrittrice irlandese, e invece manco per niente, come si direbbe, nel senso che dietro questo nome straniero si nascondono due nomi italianissimi: Nicoletta Vallorani e Mauro Garofalo. Sono autori di quella che dovrebbe essere una saga, dico dovrebbe perché è uscito al momento solo il primo volume di questo romanzo fantasy che si intitola Hope, l'ultimo segreto del fuoco, la sola speranza di sopravvivere e sconfiggere gli dèi, pubblicato da Salani. Allora, Nicoletta e Mauro, abbiamo svelato la vostra identità, quindi insomma abbiamo dato una notizia agli ascoltatori del Cacciatore di Libri, ma soprattutto sembra uno scioglilingua questo titolo, perché prima c'è Hope, poi l'ultimo segreto del fuoco e poi ancora un sottotitolo, la sola speranza di sopravvivere e sconfiggere gli dèi. Insomma, qualcos'altro volevate mettere in copertina? Sì, volevamo mettere tutto il primo capitolo in copertina, poi non ci stava. Hanno detto che non è molto... Però è sicuramente una soluzione originale, secondo me. Perché già dice delle cose, insomma, si capisce che Hope è la protagonista. Ragazzina, anche perché effettivamente il libro parla soprattutto a un pubblico giovane, cioè il target di riferimento era proprio quello tra i, insomma, 12 più, viene tendenzialmente quindi definito. Quindi dai 12 anni in su, insomma, è un fantasy con dei richiami fantascientifici e post-apocalittici. Quando ci sono gli dèi non si può che altro che parlare di post-apocalisse. Sì, è il primo volume effettivamente, quindi narra la storia di questa ragazzina. Stavi dicendo viaggio. Lei è un'orfana, giusto? Sì. E che ha un potere particolare, quale? È quello del fuoco, appunto, essendo l'erede di Prometeo, semidio che rubò il fuoco agli dèi e poi, insomma, scappa in qualche modo, essendo ladro, si rifugia sulla terra. Da lì parte un po' tutto, insomma, in questa avventura che vedrà Hope e Prometeo come personaggi principali e poi tanti altri. Ma dietro. Che cosa ci fa questa ragazzina con il fuoco? Cioè, in che senso è il suo potere fondamentale? Come riesce a gestirlo? Appunto, quello che sempre succede nel primo volume di un fantasy è che l'eroe deve scoprire il suo potere, deve capire come maneggiarlo, deve scoprire il suo potere e che cosa ci deve fare, cosa può farne per la comunità. E in ogni forma di potere, come sappiamo bene, sta dentro come un guscio il bene e il male, no? Per cui questo potere si può usare in modo positivo o in modo negativo, e quindi Hope dovrà imparare prima di tutto ad accettare il fatto di essere differente, di essere diversa. Quindi questo discorso sulla diversità ci piaceva molto affrontarlo, perché fa parte di questa età di mezzo, fa tanto parte della nostra epoca, ma appartiene molto all'età a cui è sì, post-adolescenziale, insomma, adolescenziale, pesce, e Hope lo scopre attraverso gli altri, per cui ci piaceva anche tanto fare un discorso sulla relazione, sull'amicizia, sul rapporto, sulla complessità del rapporto, che non è mai lineare, non è mai trasparente, è fatto di conflitti, è fatto di amicizie che si trasformano in odio profondo, è fatto di amori che poi diventano amicizie, oppure di amicizie che si trasformano in amori. Per cui ci piaceva anche costruire, fare una cosa che nel fantasy non viene fatta tanto spesso, cioè costruire personaggi che fossero in chiaroscuro, che non fossero integralmente una cosa, ma che fossero tante cose assieme, come sono le persone, come devono essere. Quindi non solo non c'è una netta divisione fra buoni e cattivi, ma ci sono anche, come dire, non dico personaggi di mezzo, ma dubbi, perplessità che possono interessare sì. I singoli personaggi. Assolutamente sì, anche mostrano un lato umano, e l'idea che era nata tanto da questo nostro confronto era proprio quella di prendere, sai, il fantasy è fatto tanto di modelli, di paradigmi, di formule, no? Come tutte le letterature di genere, e ci piaceva molto prendere gli archetipi, cioè le divinità del mondo greco, ma anche di mitologie celtiche mescolate, e reinterpretarli conferendo a questi eroi un pochino più di umanità, un po' più, e l'umanità è contraddittoria, evidentemente, scopro l'acqua calda. Però è così. Mauro, perché avete deciso di pubblicare questo primo romanzo con uno pseudo, cioè non è il vostro primo romanzo, però insieme sì, perché avete usato questo pseudonimo anche straniero, insomma fa più figo, fa tendenza. Fa molto più figo, e poi ci piaceva moltissimo la possibilità di fare una sorta di metanarrazione persino sull'autrice. L'idea iniziale, che era quella di mettere poi tra l'altro insieme due non intelligenze, almeno per la mia non è quantomeno due mani che scrivono su una tastiera, esatto, ecco. Esatto, così è diverso, cioè sicuramente stima reciproca, poi scrivere in modalità collaborativa piaceva moltissimo a entrambi, nessuno dei due l'aveva mai fatto, e però ci è piaciuto moltissimo mischiare, no, questa idea di fondo. Poi tendenzialmente uno dei due è più predisposto all'articolazione per struttura nella storia, e l'altro invece è molto più bravo sull'approfondimento dei personaggi. Quindi vi siete un po' divisi i compiti, ma insomma. Sai, ce li siamo rimbalzati all'inizio, quindi l'idea iniziale ad esempio era quella che io scrivessi i cattivi e lei scrivesse i buoni, e invece poi non è successo. È perché, come si diceva appunto, nessuno mai è cattivo fino in fondo, buono fino in fondo, insomma la vita è molto più complessa, variegata per fortuna, più complessa di queste divisioni. Sì, però Mauro, tu non hai risposto alla, certo, mia domanda. Perché lo pseudonimo e perché adesso svelare che siete voi? Insomma, vi siete inventati uno pseudonimo, una scrittrice irlandese, fa figo, come abbiamo detto, soprattutto nel fantasy e così via, e adesso però avete deciso di svelare la vostra identità. Kylie Minogue intanto vuol dire giovane ragazza in irlandese, quindi diciamo il richiamo era anche fondamentalmente proprio alla cultura di genere. E poi perché, alla fine, forse perché più importanti di chi scrive le storie sono le storie stesse, e quindi questa storia a un certo punto ha avuto probabilmente bisogno di far uscire fuori, di svelare anche un mistero che non era un mistero. È tutto un gioco fondamentalmente, è stato un gioco crearlo, è stato un gioco identificarci come pseudonimo, è stato un gioco trovare l'editore, pubblicare il libro, adesso lo riveliamo. Scrivere per ragazzi non è una cosa semplice, come molti pensano, dice è più facile scrivere per ragazzi, per niente, perché è molto più complicato attirare la loro attenzione, usare un linguaggio che in qualche modo li coinvolga, usare personaggi, situazioni, temi che possano essere appetibili per loro. Voi in questo senso come avete lavorato, a che cosa avete pensato quando avete scritto per attirare appunto l'attenzione dei ragazzi? Ma io ti posso dire quali sono le cose che ho imparato dalle piccole esperienze precedenti di scrittura. Cioè, ho imparato che i ragazzi sono il pubblico più complicato, perché hanno ancora una semplicità nell'avvicinamento alla scrittura che garantisce una certa franchezza nella ricezione, per cui non te lo mandano a dire, insomma, se la cosa non funziona, e questo è buono, perché finalmente è una critica sana, onesta e molto diretta. Poi l'idea, l'altro elemento, è che in effetti viviamo dentro una cultura che è quella italiana, di questo momento, in cui la lettura non è proprio l'occupazione privilegiata, non è neanche un'impresa economica vincente, se proprio la vogliamo dire tutta. Per cui anche questa sfida di entrare dentro un contesto in cui c'è la parola scritta, ma poi c'è anche tutto un altro sistema di comunicazione che va in un'altra direzione, ci sembrava interessante. Poi, se posso aggiungere una cosa proprio sul concetto di soglia che diciamo prima dell'adolescenza che diventa età adulta, a noi interessava moltissimo tirare fuori quel misto di paura bianca che si ha a 10-11 anni, che però è anche spirito d'avventura che spesso da adulti si perde, e come riferimenti, ad esempio, poi io parlo per me, ma so di parlare anche per tutti, sì, e due, no? C'è dietro Mark Twain, c'è dietro Verne, c'è dietro Conrad, ci sono dietro autori che hanno scritto pagine strepitose per letteratura per ragazzi, che spesso è stata, tra l'altro, come nel caso di Verne, addirittura in anticipo, no, sulle tendenze, come ha fatto anche la letteratura di fantascienza, o come hanno fatto anche certi tipi di fumetti, no? Che se vuoi c'è anche dietro. Neil Gaiman è un autore che ha compreso benissimo questo, no? Con American Gods, ad esempio, dei, no? Dei ragazzi, degli adolescenti. E quindi il tentativo è stato anche questo, quello di dare gioco forza a una serie di personaggi facilmente identificabili con una complessità di fondo e anche, se vuoi, un dark side, Pandora, che c'è all'interno dei personaggi, è forse l'emblema maggiore, che noi la consideriamo una strega, è Pandora, quindi colei che ha scoperchiato il vaso di tutti i mali e rimane sempre a cavallo, non sai mai da che parte si schiera e fondamentalmente è dalla sua. C'è una parte appunto di paura, di nero, eccetera, in questo romanzo, e l'aspetto invece romance, la parte romantica che spesso negli ultimi anni si sta fondendo al fantasy, basta pensare alla saga di Twilight, ormai sono passati tanti anni, però insomma ha dettato un canone. Abbiamo riso molto su questa parte romantica, perché mi sa che nessuno dei due è assolutamente portato, siamo due veri uomini. Però poi segretamente, secondo me, siamo anche un po' commossi nell'inventare le storie di questi personaggi. Ora, il problema fondamentale di Hope è che Hope è appunto l'eroe, e quindi l'eroe si deve giocare, appunto, come nelle varie saghe che hanno avuto successo negli ultimi anni, si deve giocare un po' questa interazione tra la solitudine dell'eroe che ci sta nella non appartenenza, comunque un desiderio che c'è anche, che ha anche il lettore, di vedere questo eroe finalmente felice, insomma, di vedere qualche storia d'amore, insomma, ben giocata. Da questo punto di vista, io personalmente, questo lo devo veramente a Mauro, ho imparato moltissimo dalla saga di Hunger Games, perché lì c'è il recupero dell'ambiguità, senza voler inserire uno spoiler, però il recupero dell'ambiguità nel rapporto, c'è una figura femminile che secondo me è straordinaria nel contesto del fantasy, proprio perché si gioca questa sua vita affettiva in un modo complicato, cioè non semplice, come di nuovo com'è la vita, nel senso che insomma sì, come siete voi donne, insomma, ecco. Tu citavi Hunger Games, ma voi siete anche un po' figli di Harry Potter o no? Beh sì, comunque nel bene e nel male Harry Potter ha sancito uno spartiacque nella letteratura contemporanea, direi, forse proprio nella letteratura, non soltanto per ragazzi, ma ovviamente sto dicendo una banalità, però no, sì. No, certo, ha dettato un genere, è stato un successo strepitoso. E soprattutto sulla possibilità di introdurre la magia all'interno di contesti apparentemente naturali o normali. Noi introduciamo il fuoco come potere, capacità di portare vita ma anche distruzione in Hope, che è un derivato da Prometeo, quindi stiamo scomodando la mitologia greca, e però lo innestiamo in un mondo futuro o futuribile o post-apocalittico, come dicevamo all'inizio, quindi giocando un po', se vuoi, su questi due modelli di riferimento di letteratura molto distanti tra loro, al cui interno però sì, certo che c'è la magia, quindi certo che ci sono i fulmini, no? Però ci sono tante altre cose. Adesso mi viene in mente un paragone assolutamente stupido, ma io, figlia degli anni 70, ho pensato a Grisù mentre parlavate, no? Cioè, il draghetto che non sapeva gestire il fuoco, ahimè, lui combinava veramente tanti danni. Invece in questo caso Hope è un'eroina, quindi il fuoco non è una pasticcione, insomma, deve saperlo gestire in modo... Impara, diciamo così, non è una pasticciona, si svela senza volersi svelare, quindi questa cosa le sfugge assolutamente di mano, e va bene così, perché si impara sbagliando, insomma, evidentemente questa cosa ci piaceva che ci fosse dentro. L'altra cosa che ci piaceva molto che ci fosse dentro, e che non sempre c'è nel fantasy, è un po' di ironia, un po' di divertimento, un po' di goffaggine. Tu citavi appunto Grisù, un po' ci sta questa cosa, un po' ci sta le, appunto, personalmente la cosa che io ho amato tantissimo Tolkien ancora prima di Harry Potter, e lì era tutto però terribilmente serio, nel senso che questo aspetto della risata e del gioco e dello scherzo tra ragazzi, soprattutto durante il viaggio, noi ce l'abbiamo voluta mettere perché ci stava, perché ci vuole, perché è un aspetto di divertimento che non va isolato dalla tragedia. E quello che ci interessava, tra le altre cose, era anche il fatto che tutto sommato siamo partiti dal punto di riferimento che anche l'Odissea è un fantasy. Grazie a Nicoletta Vallorani e Mauro Garofalo, in arte Kaylin Hogue, autori di questa saga fantasy, c'è il primo volume ora nelle librerie, che si intitola Hope, l'ultimo segreto del fuoco, la sola speranza di sopravvivere, sconfiggere e sconfiggere gli dèi, pubblicato da Salani. E parlando di libri per bambini e ragazzi, vi racconto un po' i dati che sono usciti proprio in occasione della Fiera di Bologna a proposito della ricerca Nati Digitali. Sono state intervistate 700 persone, naturalmente i genitori dei bambini fra 1 e 14 anni. E che cosa è emerso? Beh, è emerso che fra gli 0 e i 5 anni 8 bambini su 10 leggono, non si può dire, naturalmente hanno a che fare con i libri, li sfogliano, guardano quelli con le figure, i pop-up e così via. In età scolare diminuiscono un po', evidentemente la lettura diventa noiosa quando bisogna farla da soli e quindi diventano 7 su 10. E addirittura nella fascia 12-14, per quanto riguarda i libri cartacei, si scende a 3 ragazzi su 10. E invece, inversamente proporzionale, il rapporto con gli ebook. Naturalmente nella fascia 0-5 solo la metà dei bambini ha a che fare con tablet e cose del genere. Fra i 6 e gli 11 anni sono l'80% e fra i 12 e i 14 anni 9 ragazzi su 10 ha a che fare con un ebook o comunque legge qualcosa su un e-reader o un tablet. Di questa ricerca, che è stata promossa dall'Associazione Italiana Editori, da quella delle biblioteche, da filastrocche.it e da mamamo.it in collaborazione con Fattore Mamma, ne abbiamo parlato con Francesca Archinto, che è la coordinatrice del gruppo editori per ragazzi dell'AIE, l'associazione editori. Innanzitutto gli ho chiesto che cosa sta cambiando, che cosa sta accadendo nel mondo della letteratura, dell'editoria per bambini e ragazzi per quanto riguarda il digitale. Direi che si sta adeguando ai tempi con molta più facilità rispetto a noi adulti. Cosa sta succedendo? Gli ultimi dati, sia diciamo riguardanti i libri cartacei che libri digitali, ci hanno detto abbastanza chiaramente che i bambini stanno piano piano iniziando a leggere quello che è considerato il libro digitale. Per libro digitale intendo gli ebook, ma intendo anche le app, eccetera, eccetera, no? Dei dati, anche riprendendo un po' i dati Nielsen sul libro cartaceo, cosa è venuto fuori? È venuto fuori che l'acquisto dei libri per ragazzi è aumentato del 3% rispetto all'anno scorso, però paradossalmente abbiamo perso il 7% di lettori, e questo per quello che riguarda il mondo cartaceo. Se però diamo un occhio un pochino più attento al mondo della lettura digitale, viene fuori che noi abbiamo acquisito dei nuovi lettori. È interessante notare come, e soprattutto nella fascia, diciamo, dai 6 anni in su, ma soprattutto 12-14, che emerge una propensione per il digitale e l'ebook. Ovviamente quando si tratta ancora di prescolari si preferisce ancora il cartaceo. Quello sicuramente, e soprattutto hanno delle funzioni diverse. Cioè, il cartaceo viene utilizzato prima di andare a dormire, è una lettura spesso condivisa, mentre invece il libro digitale viene vista come così un supporto all'acquisizione dell'autonomia, viene usato durante il viaggio, quando si va in vacanza. Anche per intrattenere i bambini, magari una serata al ristorante gli si dà. Esatto, quando si ha tempo, quando si è in coda, quando si aspetta, no? Il digitale è più a portata di mano e viene utilizzato maggiormente. Quindi il cartaceo è più condiviso, diciamo, dai piccoli con i genitori, mentre il digitale segna più l'autonomia, ecco. Esattamente, stimola proprio l'autonomia. Ora vorrei farle una domanda, insomma, potrebbe sembrare provocatoria, però nel momento in cui un bambino, soprattutto in fase prescolare, legge, diciamo, insomma, ha un contatto con un ebook, insomma, c'è una favola così, e schiaccia direttamente i tastini per vedere la principessa, il mostro, il leone, cioè, non si perde un po' la capacità dei bambini di viaggiare con la fantasia attraverso invece la parola scritta? Insomma, non è che gli forniamo già tutto raccontato con il digitale? Beh, lei ha preso in pieno la critica principale che è stata data ai libri digitali, no? Manca l'esperienza tattile e non viene stimolata l'immaginazione e la creatività, proprio per quello che diceva lei, per il fatto che ogni cosa viene, come dire, è già lì pronta, raccontata in toto. Gli ebook giustamente vanno bene, però magari da un'età in su, possiamo dire così, o è troppo? Secondo me bisogna parlare di duplice lettura. C'è la lettura digitale, c'è la lettura cartacea. Una cosa è prendere un libro con il proprio figliolo, mettersi lì magari col bimbo sulle ginocchia, leggerlo insieme, ascoltare i commenti di proprio figlio, rilanciarli, per cui si crea proprio un dialogo, una lettura molto intima, col tablet o comunque con tutti questi device la lettura digitale è molto diversa, una lettura autonoma, una lettura di intrattenimento, una lettura dove proprio il bambino schiaccia, protagonista, ma non condivide niente. Come si scrive un romanzo per ragazzi? Che differenza c'è fra lo scrivere qualcosa appunto destinato ad un pubblico under 18 rispetto appunto a un pubblico adulto? Beatrice Masini, autrice per ragazzi, traduttrice di Harry Potter, ma è stata anche autrice di un romanzo, Tentativi di botanica degli affetti, che era arrivato in Cinquina al Campiello un paio d'anni fa. E sentiamo allora lei che cosa ne pensa di questa differenza fra scrivere per ragazzi e scrivere per adulti. Credo che sia più difficile scrivere per ragazzi proprio perché tutte le volte devi ricominciare da capo e a meno che tu non sia iper specializzato in una fascia d'età, che non è il mio caso, è veramente tutte le volte cancelli la lavagna e ricominci. È anche vero che in Italia temo che la letteratura per ragazzi soffra di una sorta di complesso di inferiorità, quindi è come se continuassimo a ripeterci: noi siamo le cenerentole, nessuno ci dà spazio, e più lo ripeti più questo è vero. Forse se si lasciasse perdere questo lamento e si pensasse soltanto a fare dei bei libri, dei buoni libri, dei libri che lasciano piccoli segni nei bambini, che li aiutano a crearsi un gusto, per esempio un gusto visivo, penso ai libri illustrati, che li aiutano ad ascoltare il suono delle parole. Penso che sia più importante questo che non dirsi siamo di serie A, siamo di serie B, perdita di tempo. Insomma, bisogna essere tosti per scrivere per i ragazzi, bisogna cercare di catturare la loro attenzione, ma c'è un modo per invogliare i ragazzi a leggere, per attirare la loro attenzione attraverso i libri? Tito Faraci, sceneggiatore di fumetti come Topolino, Martin Mister, Dylan Dog, autore di libri di ragazzi horror, l'ultimo death metal, ci racconta un po' qual è il suo segreto. Il modo, la formula è: non trattare mai bambini da bambini, non trattare mai ragazzi da ragazzi. Non bisogna essere mai condiscendenti, cioè non degli autori che ho conosciuto, che magari anche bravissimi, hanno provato a scrivere anche per ragazzi e hanno sbagliato, si sono abbassati, hanno pensato che dovessero prendere un tono più leggero, che dovessero fare una specie di vocina come fanno gli zii parlando con quello birignao, che non va bene. Bisogna parlare, bisogna essere come loro, bisogna rispettarli moltissimo, capire che si sta scrivendo non soltanto per bambini o soltanto per ragazzi, ma anche per bambini e anche per ragazzi. In quel momento hai un pubblico in più, non hai un pubblico in meno, cioè non hai settorializzato la tua scrittura, ma l'hai allargata. Vuol dire che stai scrivendo per tutti una storia che chiunque possa leggere e possa apprezzare, possa capire, anche dei ragazzi. Quindi avere una carta in più, non limitarsi, ma addirittura espandersi. Ma nella scelta dei temi si cerca ovviamente di stare vicino. Ecco, quello può essere invece un altro discorso ancora, perché scegliere un tema vicino al mondo dei ragazzi, che racconta magari la loro epoca, l'adolescenza in questo caso, o anche il mondo dei bambini, questo è non vuol dire essere condiscendenti, questo vuol dire affrontare un tema che comunque interessa a chi lo sta vivendo, per così dire, in diretta, ma rimane fortemente dentro chiunque. A quel punto tu hai fatto una storia di ragazzi più ancora che per ragazzi, che può interessare molti ragazzi, ma a questo punto interessa chiunque. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Roberto Scaltritti. Vi ricordo come sempre che ci trovate su radio24.it, l'archivio anche delle puntate precedenti, su Twitter come Ale Teddina e naturalmente anche su Facebook. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.